mare tra le dita, il fuoco che taglia fantocci di sabbia. Fuoco di cera, sento dentro, sento fuori, che grida la gente è aria. Vedrò, lo so, 100.000 altre vendette del sangue. Giocava con il cielo, dimenticando l'aria.